Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi non soltanto vista l'ora parliamo di cibo, anzi parliamo del cibo per eccellenza, il pane, con un libro affascinante di uno scrittore di Mostar, Predrag Matveevich, che si intitola Pane Nostro, è pubblicato da Garzanti, 234 pagine, 18,60 euro ed è tradotto da Silvio Ferrari. Abbiamo la prefazione di Enzo Bianchi e la postfazione di Henry De Luca. Libro, dicevo, affascinante per il modo in cui lo scrittore affronta questo tema apparentemente dimesso e banale per costruire un vero e proprio inno alla civiltà che questo cibo, il pane, cioè questo cibo mite e prezioso, rappresenta. E infatti lo scrittore ci parla del pane da tanti punti di vista, dalla storia all'arte, dalla religione alla geografia. Ma sentiamo sul tema l'autore. Buongiorno a Predrag Matveevich. Buongiorno. Il suo libro sul pane illustra il pane come un prodotto della natura e della cultura. In questo senso il pane è veramente un valore universale? Infatti credo che comunque l'alimento più universale che esista sia il pane. Anzi, in alcuni paesi che hanno sostituito il grano dal riso, esisteva una volta il pane, hanno preso il riso perché il riso si può meglio utilizzare per i paesi che hanno tanti abitanti, e dunque il cibo è il più universale che ha seguito la storia dell'uomo. Infatti forse comincia un po' prima della storia, nasce così sulla cenere, su una pietra, e così la storia si affaccia in qualche modo nello stesso momento. Nel suo libro, nell'ultimo capitolo, lei spiega come ci sia in fondo anche una connotazione quasi personale in questo studio sul pane. Dovrei dire che sono alcune esperienze personali. Lo descrivo all'ultimo capitolo del libro Pane Nostro. Descrivo come durante la Seconda Guerra Mondiale abbiamo molto sofferto, mio padre, essendo d'origine russa, pur essendo un emigrato, è stato in un campo nazista, e così è stato aiutato da un pastore protestante cristiano. E questo esempio era la prima cosa che mi disse mio padre quando finì la guerra, così mi diceva che questo pastore, e mi suggeriva di portare un po' di pane ai prigionieri tedeschi che hanno fatto tante cose brutte in ex Jugoslavia, dove sono nato, di dare a loro un po' di pane perché questo pastore l'ha aiutato. Questa era, diciamo, la prima ispirazione, la prima mia mossa verso il pane. Poi dopo, in 73, sono andato la prima volta in Unione Sovietica, dove è nato il mio padre a Odessa, e ho trovato le informazioni tragiche, che il mio nonno è stato ucciso in Gulag, che il mio zio è stato ucciso nel campo staliniano, e le ultime parole che hanno pronunciato, hanno gridato pane, pane, come i personaggi di Manzoni sulle strade di Milano. Ecco, queste sono state le cose che mi hanno spinto a fare, a pensare sul pane, prendere diciamo riferimenti un po' da tutto, e poi fare viaggi. Grazie al fatto comunque che alcuni miei libri mi hanno portato un po' di mezzi di denaro, ho potuto fare tantissimi viaggi, quelli che non potevo fare scrivendo il libro Breviario Mediterraneo, che è collegato in qualche modo con questo libro. Lei nel suo libro sottolinea anche il particolare ruolo che il pane ha nelle religioni, in particolare nel cristianesimo. Anzi, lei scrive che nel cristianesimo il cristianesimo assume e fa proprio il pane degli ebrei. Assolutamente. Il pane lo vediamo nel Talmud, lo vediamo nel Vecchio Testamento, e dunque sappiamo che il cristianesimo è collegato con il Vecchio e il Nuovo Testamento, sono in qualche modo collegati, e dunque Cristo fa parte di una origine ebraica come San Paolo, e dunque io ho seguito un po' i libri, diciamo, di religione, Sacra Scrittura. Là anche c'era una sofferenza per me. Mio padre russo d'origine è ortodosso, la mia madre cattolica croata. Ho visto che anche l'Eucaristia è diversa. Per l'Eucaristia i cattolici devono prendere una ostia che azima, come il pane ebraico, come il pane azimo. Invece gli ortodossi prendono il pane ordinario, quello che è lievitato. Dunque, ho riflettuto su tutte queste differenze, che alcune non mi sembravano necessarie, si poteva trovare un accordo così per una fede che ha le stesse origini, infatti. E questo mi ha preso molto molto tempo. Mi sono reso conto un momento, forse una decina di anni fa, che la mia cultura teologica è insufficiente. Nel suo libro c'è anche un capitolo per immagini, con alcune riproduzioni molto belle sul pane, appunto, nell'arte. Di queste immagini, qual è quella che l'ha colpita di più, quella che secondo lei trasmette meglio questo senso universale del pane? L'ultima cena di Leonardo, perché ci comporta un problema. L'ultima cena del Cristo con i suoi discepoli doveva aver luogo un giorno della Pasqua ebraica. In questo periodo tutti i lieviti dovevano portare fuori dalla casa, annientati, il pane che si mangiava doveva essere assolutamente azimo, senza lievito. E il Cristo lo spezza, se fosse un grande pane lievitato non potrebbe essere così spezzato. Invece la grande arte cristiana all'inizio comincia coi pani senza lievito, azimu, poi Leonardo, poi Tintoretto fanno i pani che sono evidentemente lievitati. Non direi, non è un tradimento, ma c'è una cosa che lascia pensare. Così ho studiato questi temi attraverso l'arte cristiana, non cristiana. Questo era anche un lavoro diverso e talvolta difficile. Oggi il pane riesce a trasmettere questo senso universale ai contemporanei nostri? Credo di sì, comunque, ma con alcune, diciamo, messe in guardia bisogna guardarlo. Gli specialisti, diciamo, che ci fanno sempre questi pronostici, dicono che fra 30 anni saremmo 5 miliardi sulla pianeta, di cui 2 miliardi potrebbero essere senza pane. Allora vedi questa brama del pane, questa volontà di avere, di dare pane a tutti, una preoccupazione ad un tempo personale e collettiva, anche alcuni grandi stati, alcuni grandi imperi volevano dare pane a tutti per poter reggere, poter avere il potere. E così dunque questo complicava sempre, diciamo, l'approccio, ecco, un approccio antropologico, il rapporto del pane e del corpo. Non per caso il corpo del Cristo è nell'Eucaristia, problematica teologica, sociologica, filologica. La parola pane e la parola padre sono della stessa radice europea, colui che protegge. Il padre protegge, il pane protegge. E la parola italiana gleba, dunque la terra, e il globo sono della stessa radice, della stessa ispirazione. Di questa parola gleba si sono fatti pani slavi, per esempio hleb si dice in russo, in slavo, in croato. E dunque era un lavoraccio, devo dire francamente, che è durato tanti anni e io non volevo lasciarlo. Io avevo come un certo debito, dovere nei confronti di quelli che hanno salvato la vita al mio padre, così ai lavori coatti, si diceva, in un campo nazista. E anzi pensavo al destino triste della mia famiglia paterna nei gulag staliniani. Grazie a Predrag Matvejevic, autore di Pane Nostro. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie all'editore Garzanti, che ha fatto rapidamente questo mio libro e che adesso è disponibile al pubblico italiano. Ci tengo molto perché sono stato 14 anni in Italia, bene accolto, presidente Scalfaro mi ha dato la cittadinanza e questo pane comune è con mio contributo anche in questa vicenda. Grazie mille, buona domenica. Grazie. E di Predrag Matvejevic, la casa editrice Garzanti sta ripubblicando il libro che forse gli ha dato la maggiore fame in Italia e non soltanto, e cioè Breviario Mediterraneo, costa 18,60 € per 320 pagine, un romanzo, un libro dalla natura multiforme, nella quale vuole l'autore ricostruire il significato della parola, appunto, Mediterraneo. Il confettino. Ritroviamo il pane nel titolo del libro di Daniele Granatelli, Il sapore del pane, con le illustrazioni di Giacomo Nanni, pubblicato da Zoolibri, 132 pagine, 18 euro. Qui il pane è evocativo di una particolare fase della vita del giovane protagonista, Daniele, di appena 4 anni, un bambino coinvolto nella tragica avventura della Seconda Guerra Mondiale. Il piccolo viene affidato a una rete di soccorso dei partigiani che lo separerà per diversi anni dalla famiglia, tanto che nel frattempo l'Italia cambierà radicalmente, al punto che, scrive appunto l'autore nelle ultime pagine, non si sentiva più il profumo del pane appena sfornato, si comprava in negozio e non aveva lo stesso sapore. Prima di dare la linea alle informazioni sul traffico, vi segnalo che da oggi fino all'8 dicembre a Milano, nella sede cittadina della Fiera, Fiera Milano City, si svolge la 6ª edizione del Salone del Libro Usato, Bancarelle in Fiera, che è organizzato dalla Fondazione Biblioteca di Via Senato. In questa occasione ci sono centinaia di bancarelle che vengono prese d'assalto dagli appassionati, ma anche dalle famiglie, perché qui si potranno ritrovare le famiglie normali, lettori qualunque, che troveranno libri usati, ma anche delle rarità, e quindi anche i collezionisti sono interessati a questo appuntamento. Pensate per esempio che in questa occasione potrete trovare la prima edizione, molto rara perché stampata in soltanto 2000 esemplari, del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Infatti a questa edizione collaborano anche gli editori che hanno messo a disposizione alcuni dei loro fondi e dei loro magazzini. Comunque ci vengono annunciati fumetti introvabili, grandi classici della letteratura, serie complete di paperback e gialli, rarità per collezionisti, raccolte di poesia, libri fotografici e anche libri per ragazzi e romanzi di fantascienza. Insomma, c'è da sbizzarrirsi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo il pane non possiamo che parlare del vino, col libro Il desiderio del vino di Jean-Robert Pitt, che è un professore di geografia culturale. Storia di una passione antica è il sottotitolo del libro, che è pubblicato da Dedalo, 312 pagine, 24 euro, ed è tradotto da Vito Carrassi. L'autore non ci dà tanto in questo libro una storia del vino, quanto un'interpretazione del fascino e del richiamo che questa bevanda ha sempre suscitato sull'uomo. Il vino e il consumo di alcol sono considerati sempre più pericolosi, sempre più circoscritti, ma resta la funzione ideologica, come scrive Paolo Scarpi, il quale ricorda come il vino operi all'interno di un sistema di codici simbolici che sono frutto delle sintesi operate dal pensiero e dall'intelligenza umana. E quindi nel libro il linguaggio del vino, scrive l'autore, viene dalla profondità del nostro ambiente, così come dall'anima. Pertanto, quando è schietto e generoso, permette di vivere intensamente la condizione umana. E il libro conduce il lettore in un'analisi di come il vino sia stato considerato nella storia, dalla Mesopotamia alla cultura ebraica, alla divinizzazione in età classica e poi il significato che il vino assume nel cristianesimo, fino a oggi, alla mitizzazione che di certi prodotti ha avuto luogo. E quelli che non lo possono bere? Beh, si parla anche di loro, per esempio degli islamici, che troviamo in queste righe che vi propongo. Contrariamente all'opinione comune, il vino è al centro del discorso islamico, ma in una maniera che è difficile da affrontare per i credenti praticanti, quasi una tortura, dato che la sua assunzione è rigorosamente proibita quaggiù e che occorre attendere il paradiso di Allah per provare il piacere di berne. Si tratta di un'ascesi che ben conoscono quei cristiani che rispettano il divieto dell'atto sessuale fuori dal matrimonio o i chierici che vi rinunciano definitivamente. I religiosi che fanno voto di obbedienza, povertà e castità sanno molto bene che la totale libertà dei propri atti, la ricchezza e l'amore sensuale procurano piacere, finanche gioia, ma essi hanno scelto di rinunciarvi per meglio consacrarsi al servizio esclusivo di Dio e del loro prossimo. Vivono nella speranza della felicità eterna e, per molti, nel sentimento sincero di una liberazione anticipatrice dalla pesantezza dei sensi e delle contingenze materiali. C'è un po' di questo nel divieto del vino presso i musulmani, allorché è accettato e rispettato, cosa che fin dalle origini non si riscontra affatto in maniera generalizzata. Le trasgressioni sono infatti molteplici in tutti i paesi musulmani, in tutti gli ambienti e in tutte le epoche da 14 secoli a questa parte. Il Medio Oriente ha del resto prodotto, nei primi secoli dell'Islam, una sublime poesia bacchica, al contempo erotica e religiosa, che per autori non può aver avuto che autentici cultori illuminati, proprio come Le Mille e Una Notte, redatte tra India, Persia e Mesopotamia, nelle quali il vino scorre a fiumi. Un grosso paradosso con il quale le culture musulmane sembrano convivere piuttosto bene. E parte proprio dal vino, che diventa quasi il protagonista di una cerimonia, di un momento d'incontro straordinariamente evocativo, il libro di Maria Luisa Catoni, Bere vino puro, immagini del simposio, pubblicato da Feltrinelli, 506 pagine, 39 euro. Qui l'archeologa ci dà un dotto saggio, illustrato da tantissime immagini che si riferiscono anche ai grandi capolavori dell'arte classica, un dotto saggio sulla tradizione appunto del simposio, che partiva dalla tradizione di bere del vino, ma naturalmente il simposio non era soltanto un'occasione per bere, e lì il bere vino diventava l'occasione per degli incontri e per delle celebrazioni di civiltà, sulle quali la Catoni ci dà una descrizione molto puntuale. Restiamo sul tema della produzione agricola con un libro per capire proprio i problemi dell'agricoltura moderna. È il libro di Paolo De Castro, che è professore di economia agricola, che è europarlamentare, è stato anche ministro dell'agricoltura con i governi di Massimo D'Alema e Romano Prodi. Il libro si intitola L'agricoltura europea, le nuove sfide globali, è pubblicato da Donzelli, 142 pagine, 16 euro. E il libro affronta il tema della PAC, della politica agricola comune, per sul banco degli imputati. De Castro ci spiega che cosa serva, come funzioni, come possa essere modificata alla luce dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo dell'agricoltura, che risente per esempio dei grandi cambiamenti climatici. Ultimi arrivi. Vi presento due libri oggi di due nomi noti, un libro molto corposo e un libro molto più agile. Quello più corposo è di Roberto Calasso, L'Ardore, un denso volume di 530 pagine, pubblicato da Adelphi, 35 euro, dedicato alla cultura vedica, cioè relativa alla civiltà fiorita in India più di 3.000 anni fa. Una civiltà, scrive Calasso, che non lasciò oggetti né immagini, lasciò soltanto parole, versi e formule che scandivano rituali, meticolose trattazioni che descrivevano e spiegavano quegli stessi rituali, al centro dei quali appariva una pianta inebriante, il soma, che ancora oggi non è stata identificata con sicurezza. Su questo argomento Calasso si addentra per studiare e approfondire questi testi, facendo anche delle incursioni negli altri miti paralleli e coetanei, e non soltanto. Il libro più agile è quello di Antonia Slan, popolarissima per il grande successo che ha avuto il libro La fattoria delle allodole, che racconta con poetica discrezione una sua drammatica avventura. Il libro si intitola Ishtar 2, cronache del mio risveglio, pubblicato da Rizzoli, 116 pagine, 12,50 euro. Il titolo riprende il nome di un padiglione ospedaliero di Padova, dove l'autrice a un certo punto viene ricoverata ad urgenza in gravi condizioni. Dopo alcuni giorni si risveglia da un coma farmacologico e ci racconta qui prima lo sprofondamento nel sonno e poi il ritorno alla coscienza. Prima di salutarci vi ricordo che a Roma è in corso fino all'8 dicembre l'annuale appuntamento Più Libri Più Liberi, che è la fiera nazionale della piccola e media editoria. Quest'anno sono presenti oltre 400 case editrici con 16.000 titoli, e naturalmente in questa occasione ci sono molti appuntamenti e molti incontri, molti dibattiti. Vi segnalo per esempio che oggi alle ore 16 avrà luogo l'incontro con Howard Jacobson, che è il romanziere saggista britannico che ha vinto un premio molto importante e che è diventato un grande successo internazionale. Alle 14 invece è presente Luis Sepúlveda, l'autore cileno, che parlerà di un tema drammatico, cioè quello del terremoto, assieme all'haitiano Louis-Philippe d'Alembert e ai cileni Carmen Yanez e Santiago Eliordi. Ci sono poi appuntamenti con le nuove tecnologie presso il Digital Café e naturalmente uno spazio piuttosto ampio dedicato ai visitatori più piccoli. Con questo ringrazio Margherita Aina in redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, vi do appuntamento la settimana prossima.